La combinazione è un po' insolita, ma i due personaggi sono affatto riconoscibili. Quello sdraiato sul lettino dello psicoanalista, con quell'espressione un po' ebete che ben s'addice alla circostanza, è indubbiamente Benito Mussolini. E il terapeuta dall'aria severa in piedi al suo fianco, pronto a raccogliere chissà quali confessioni liberatorie, non cessanti, è il dottor Freud in persona. La scena è riprodotta a piena pagina per pubblicizzare una serie di DVD intesi a presentare i protagonisti della storia come non vi avete mai visti. Il primo dedicato appunto al Duce, non a Freud, sarà in edicola da domani. E io l'ho vista, l'ho trovata mercoledì scorso su una copia del giornale a casa di un'anziana e incauta signora la cui badante non ha ancora capito che nei giorni di sciopero dei giornalisti non bisogna tirar sul primo prodotto di crumiraggio in cui ci si imbatte in edicola. Si tratta evidentemente di un fotomontaggio, ma in fondo l'incontro di cui simula la testimonianza sarebbe stato almeno in teoria possibile. Freud e Mussolini erano più o meno contemporanei e se solo avessero superato l'antipatia reciproca avrebbero potuto benissimo fare conoscenza. Il fondatore del fascismo poteva vantare quante nevrosi bastavano a dar da vivere una dozzina di terapeuti e la psicoanalisi freudiana, a pensarci, non si sarebbe trovata a disagio con le turbe di quel tipo più di quanto non lo fosse con tutte le altre. Nella realtà probabilmente Mussolini prima di accomodarsi si sarebbe tolto il fez nero con il fascio vittorio e Freud a sua volta avrebbe riposto il sigaro che qui brandisce quasi a testimoniare di un ancora imperfetto superamento della fase orale. Comunque, tenuto conto che almeno uno dei due, come noto, parlicchiava la lingua dell'altro, la seduta avrebbe potuto svolgersi effettivamente con esiti sui quali allo stato non ci si può azzardare. Sto scherzando, naturalmente, ma c'è una cosa su cui scherzi o non scherzi non si può dubitare. Fascismo e psicoanalisi sono a tutti gli effetti due manifestazioni storicamente fortunate di quella cultura europea dei primi decenni del XX secolo da cui non riusciamo evidentemente a liberarci. Di più, anche se gli esiti sono stati diversi, visto che il fascismo dopo una breve ma intensa fase di egemonia di cui gli psicoanalisti tra gli altri hanno fatto le spese e si è inabissato nelle paludi della storia, lasciandosi dietro al massimo una scia di tenaci fenomeni residuali, mentre la teoria freudiana dopo le esitazioni iniziali è stata accolta con tutti gli onori nel mainstream culturale corrente, anche se non saprei dire quale sia il suo status valoristico attuale, resta vero che quelle dottrine, malgrado tutto, qualcosa in comune ce l'hanno. Entrambe utilizzano, nella specificità dei propri interessi e del proprio campo d'applicazione, dei materiali per qualche verso affini, e fanno riferimento ciascuna a suo modo a un universo di pulsioni oscure e inconsapevoli, a una realtà irriducibile a certe categorie invalse fino alla svolta del secolo. Insomma, non sono uno specialista e non mi azzardo a entrare in particolari, ma credo che senza farla troppo lunga se ne possa benissimo parlare come di due manifestazioni pur diverse dell'irrazionalismo del primo Novecento. In fondo, su cosa avrebbero potuto concordare in un ipotetico incontro due figure tanto diverse per interessi, spessore morale e dimensione umana? Beh, forse si sarebbero trovati d'accordo, o quasi, sull'impossibilità di utilizzare dal loro punto di vista i portati del secolo dei lumi. Mussolini ne rifiutava le implicazioni politiche, gli svolgimenti liberali e democratici del pensiero rivoluzionario, il rifiuto laico della dimensione ideologica dello Stato, e Freud, che su quel campo ovviamente non avrebbe potuto seguirlo, non si illudeva un granché neanche lui sulla possibilità di organizzare la vita pubblica su basi razionali. Entrambi avevano dovuto fare i conti, non necessariamente di prima mano, con la lezione critica di Nietzsche e interpretavano a modo loro la crisi della civiltà in cui erano cresciuti. E avevano anche una cosa in comune in più. Entrambi si sarebbero stati stupitissimi all'idea che della loro immagine accuminata o disgiunta si sarebbe potuto far uso per pubblicizzare una collana di DVD storici. Una serie cioè di biografie elettroniche, modellate mi pare di capire più su Svetonio che su Plutarco, che promette di rivelare curiosità, fatti singolari, rivelazioni intriganti, successi e sconfitti e immagini inedite su tanti personaggi indimenticabili, dal fascino intramontabile di Marilyn al genio di Einstein, dal talento di Leonardo da Vinci all'attualità di Arafat. Aggiungerò per completezza che oltre ai nominati l'iniziativa coinvolgerà Napoleone, Kennedy, Enzo Ferrari, il Mahatma Gandhi, Maometto, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Stalin, Al Capone, Bill Gates, Lucrezia Borgia, Enrico VIII, Rodolfo Valentino e Buffalo Bill. Alla luce di questo elenco, naturalmente la decisione di lanciare la nuova collana con l'accostamento fittizio tra il Duce e il padre della psicoanalisi appare ancora più logica e ragionevole. Sarebbe stato molto più difficile rendere plausibile un abboccamento tra Einstein e Al Capone, a meno di sfruttare la loro comune natura di immigrati negli Stati Uniti, o un tête-à-tête tra Buffalo Bill e Lucrezia Borgia. Ma forse, anche se tutti insieme costoro avrebbero dato vita a una ben curiosa assemblea, qualcosa su cui intrattenersi insieme lo avrebbero comunque trovato. Molti di loro, quasi tutti anzi, erano esperti di propaganda e avrebbero potuto discettare se non altro su quanto sia strana l'idea di lanciare una collana storica con quello che a metà parte resta comunque un falso. Ma la distinzione tra vero e falso, si sa, è quella che nel mondo dell'informazione italiana e del connesso spaccio forzoso di gadget non ha più molta importanza. Nessuna illazione invece è lecito trarre dal fatto che il quotidiano di famiglia del Presidente del Consiglio inauguri la serie proprio con la vita di Mussolini. Vigera par condicio, e in questa stessa settimana una biografia dello stesso tristo figuro, sia pure in più tradizionale forma cartacea, viene offerta per la modica somma di 9,90 euro ai lettori di Repubblica, sul posto versante politico informativo. Di particolari sulla vita del Duce, a quanto sembra gli italiani sono sempre ghiotti, come se, visto quel che offre oggi il mercato, anche del vecchio Benito si possa sentire in un certo senso la nostalgia.